tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Ben ritrovate, ben ritrovati. Radio Wombat qui che prende il testimone consueto ormai mensile del Ponte Radio, in diretta quindi su quattro radio sorelline: Radio Wombat, Radio Quar, Radio Onda Rossa e Radio Eustachio, che di settimana in settimana si alternano per affrontare un argomento di volta in volta diverso, che può essere un argomento a tema univoco, diciamo, su cui ci mettiamo d'accordo e ogni radio dice un po' la sua, oppure, come questo mese, un tema a piacere. Ogni radio decide di sviscerare un po' un tema che decide a suo gusto. E così è per noi. Abbiamo deciso di parlarvi qui dal territorio fiorentino, come sapete, Firenze e Toscana, insomma un po' allargata, come si sente dalla nostra mancanza di C. Abbiamo deciso di parlarvi quest'oggi di trasformazioni urbanistiche che hanno investito negli ultimi decenni, ormai possiamo dire, il nostro territorio. Qui con me abbiamo altre due persone che ci aiuteranno a sviscerare un pochino la questione. In particolare abbiamo Jimmy Galapagos, che è resident ai nostri microfoni, e poi Lorenzo, che invece ci aiuta da un punto di vista un po' più tecnico a entrare nel dettaglio e anche a non perderci nei mille rivoli tecnici della questione. Buonasera. Eccoci qua. Dunque, abbiamo tantissime cose da dire e quindi stiamo cercando, tipo sarà una corsa, riuscire a dirle tutte. Come sempre. Però dai, è stato divertente prepararle, quindi proviamo a iniziare. Pensiamo che sia opportuno fare delle sette di premesse, disclaimer, come dir si voglia, per questa puntata, proprio perché il nostro intento è cercare di descrivere il territorio fiorentino, però cercando di renderlo comprensibile anche, diciamo, fuori dalle nostre frontiere. Il tema specifico dell'urbanistica che trattiamo oggi si presta in particolare appunto a diverse interpretazioni proprio da un punto di vista di scala geografica, cioè ci sono moltissime caratteristiche che caratterizzano le regolamentazioni generiche delle nostre città italiane che hanno un carattere comune, ma ci sono anche moltissimi dettagli e differenze che peculiarità certo. Sì, che con più o meno ragione caratterizzano poi, diciamo, lo sviluppo del cemento edile e urbano dei spazi che viviamo. In particolare, tra queste premesse, quella che ci è parsa essere forse più rilevante è che nella valutazione opinabile o meno della necessità o meno di avere regole fisse, chiare, ben definite, scalabili, estendibili, che siano delle regole appunto urbanistiche delle varie città, questa complessità può apparire necessaria, e un po' a noi ci sembra così, cioè ogni territorio ha le sue caratteristiche morfologiche, sociali, storiche, ambientali, storiche, e quindi tutto sommato necessita di attenzioni particolari. Ora, che queste attenzioni diventino pianificazione e progetto, e come lo possono essere, appunto, è una discussione che è a margine. Il punto è che ci sembra evidente come le varie amministrazioni delle varie città d'Italia approfittino in qualche modo, ecco, di queste peculiarità territoriali per spingere in particolari direzioni. In particolare, questo è molto rilevante per città come Firenze sicuramente, ma ad esempio anche Venezia, che hanno una fama di turismo e comunque sia di sono entrambe città d'arte con afflussi di turismo estremi vicine ad aree industriali molto sviluppate, che ovviamente in genere sono meno note proprio perché l'arte e il turismo prevale su queste. Quindi in questi contesti il regolamento proprio urbanistico, ecco, di queste città diventa veramente un fango infinito, una rete dove tra i dettagli si sviluppano dei meccanismi speculativi che proprio oggi cerchiamo un po' di sviluppare. Sì, tra l'altro questi meccanismi che dicevi sono un po' anche quello che fa da elemento ricorrente anche nelle altre città, cioè nel senso, se è vero che come abbiamo detto ci sono delle peculiarità specifiche città per città, territorio per territorio, è pur vero che queste caratteristiche che oggi vi diremo, penso, fino alla noia, abbiamo individuato come essere delle caratteristiche che in realtà, come dire, sono ormai discorso comune un po' ovunque, ritroverete, penso, in ciascun territorio, chi più chi meno, chiaramente con le sue differenze. Intanto si parla e parleremo abbondantemente di svendita del patrimonio pubblico, e questo a livello urbanistico lo vedremo, avrà diverse conseguenze da un punto di vista sociale e anche economico e quant'altro, e questo sta avvenendo in tutta Italia, potremmo dire. Concentriamoci per oggi sull'Italia, ecco, mi sembra sì, già abbastanza. Un altro punto che affronteremo sarà la deregolamentazione. Di fatto si cerca di togliere ormai da decenni i lacci e laccioli, direbbe qualcuno, che irregimentano, o anche se poco va detto, comunque provavano a regimentare il liberismo, il capitalismo e un certo tipo di sistema economico, di visione del mondo e della città. E quindi da negli ultimi anni in particolare stiamo assistendo a una deregolamentazione molto sistematica, che è anche questo è un elemento comune che non è proprio di Firenze. Un'altra premessa che forse è anche opportuno fare è che insomma, magari talvolta daremo un po' per scontato l'uso di una certa terminologia, di certi tecnicismi, ma perché appunto il tempo è quello che è, non possiamo scendere nello specifico di tutti gli aspetti tecnici, però dall'altra parte noi non siamo nemmeno urbanisti e quindi siamo passibili appunto di errori anche da questo punto di vista. E quindi mettiamo un po' le mani avanti. Totali. E ma la nostra, appunto, ci scusiamo per eventuali scivoloni. Assolutamente, ma la nostra comunque sia resta una prospettiva appunto il più informata possibile, in genere piuttosto critica, però appunto di quello che abbiamo intorno. Nel quadro, diciamo, che citavi della deregolamentazione, appunto è un altro dei punti importanti che andremo a citare, appunto, è tutto lo sforzo di retorica che c'è per qualsiasi azione che viene fatta dall'amministrazione. Quindi in genere la deregolamentazione che citavi viene spesso proposta come efficientazione, quindi come riduzione di qualcosa o a favore di qualcos'altro. Sì, direi che anche a chiudere un po' questa piccola premessa introduttiva che è un disclaimer nostro, forse sì. C'è anche appunto il leitmotiv che sentirete ricorrere per tutta questa puntata sulla lamentazione che faremo spesso della mancata pianificazione. C'è evidentemente una tendenza ormai, direi, abbastanza conclamata nel rinunciare il ruolo di gestore e di pianificatore che ha lo Stato, che hanno le istituzioni, e lasciare un po' la palla al privato. E quindi lo vedremo come poi questa cosa ha delle grosse ripercussioni e in realtà è, come dire, non è semplicemente una mancanza di verve, non è che non c'hanno voglia, è anche quella una pianificazione precisa, anche la non pianificazione paradossalmente, ci sono delle scelte ben precise dietro. Sì, tra l'altro appunto l'arretramento, diciamo il farsi un po' indietro dello Stato apparato come soggetto pianificatore, regolatore, come appunto soggetto che coordina le trasformazioni che investono lo spazio urbano, comunque il territorio, va di pari passo appunto con una trasformazione anche delle burocrazie che saranno, insomma, la dimensione della burocrazia in quanto tale sarà un po' l'elefante nella stanza di questa puntata, perché comunque si ha a che fare con materie molto tecniche e quindi anche abbastanza impermeabili per, diciamo, la conoscenza comune da parte delle persone, e quindi quasi un qualcosa che astrae, no, dal mondo comune, nonostante investano la quotidianità di chiunque. E però la burocrazia è un, insomma, ha questa doppia anima: da una parte laddove gli si richiede il compito di regolamentare il mercato, di porre appunto dei limiti a un certo tipo di sviluppo, non ci si può fare niente perché non abbiamo margine, esatto, carta canta. E poi dall'altra, quando invece si tratta di tutelare una serie di diritti di cittadinanza e altre, insomma, la dimensione più umana della città, la burocrazia sta lì a fare un po' da scudo, da controtutela, no? per questo tipo di azione, di rivendicazione di possibilità altre di vivere lo spazio pubblico e la città. E, insomma, questo è un po' un quadro generale. Sì. Sì, tra l'altro, appunto, parleremo di questioni tecniche, anche se, come giustamente dicevi, lo faremo magari in maniera imprecisa e a volte abbastanza goffa, però parleremo di questioni tecniche che, secondo noi, per quanto possano risultare un po' ostiche, forse a volte un po' respingenti, però abbiamo valutato che è molto importante comunque farsene carico e farsi carico anche della complessità che a volte hanno certi temi, perché effettivamente certi cambiamenti molto pesanti che stanno avvenendo nelle nostre città, sulle nostre vite quotidiane, derivano poi in fondo da questo tipo di dinamiche, che se non studiamo un po' a fondo, anche accettando la complessità tecnica che questo comporta, a volte ci sembra che abbiamo problemi poi a poterle analizzare e quindi poi elaborare di conseguenza una strategia. Quindi abbiate pazienza, ma no. Dei nostri tecnicismi. Però d'altra parte, al netto, diciamo, ecco, dei nostri limiti, abbiamo anche delle persone a noi prossime eccellenti che ci aiutano. Eccellenti, sì, e anche, ora, a parte gli scherzi, molto preparate e competenti invece sull'argomento, che appunto andremo a sentire a breve. Sì, noi siamo andati a recuperare una vecchia intervista di una trasmissione, tra l'altro, di Radio Wombat, di Passaggio a Nord-Ovest, quindi il furto in questo caso è proprio interno, e si tratta di un'intervista del 2018, quindi è un po' datata, ma sentirete Ilaria Agostini, che è un'urbanista da sempre molto attiva a Firenze e non solo, nella critica a un certo tipo di urbanistica, insomma, a un certo tipo di visione della città. E sentirete Ilaria Agostini che parla noi abbiamo estratto due clip che vi faremo ascoltare. In entrambe si parla di due aspetti correlati e importanti, che partono però nel suo discorso da una variante al regolamento urbanistico. Eravamo allora nel 2018, appunto, e si parlava ancora di regolamento urbanistico, e viene introdotta una variante, la sentirete, che poi avrà delle ripercussioni molto importanti in tutto l'assetto cittadino anche negli anni a venire. Diciamo che gli effetti di quello che lei analizza in questa breve intervista sono quelli che poi ci andiamo a vivere sulla nostra pelle a tutt'oggi. Si parlerà di alienazione del patrimonio pubblico e della deregolamentazione delle ristrutturazioni edilizie, in particolare di edifici storici di interesse. Lo vedremo quando si parla di edifici storici. Lei a un certo punto lo spiega piuttosto bene. Non vi immaginate la bomboniera fiorentina, che stiamo parlando del Duomo di Firenze o degli Uffizi. anche di quello, perché comunque non ci, insomma, non ci formalizziamo e ci vendiamo un po' tutto, compresi i gioielli di famiglia, ma qui si parla anche di aree molto grandi, poi nel corso della puntata ci entreremo meglio, che stanno anche nella periferia fiorentina, quindi invadono un po' tutto il territorio fiorentino. Io direi forse di far ascoltare subito questa, sì, questa prima intervista, che dura un po', perché si tratta di quasi 14 minuti, però insomma è piuttosto vivace. Spiega molto bene questi meccanismi speculativi. Eccola qua. Siamo qui con Ilaria oggi, un'urbanista critica che ci vuole parlare appunto di una variante, seppur piccola, o comunque può sembrare piccola, all'articolo 13 del regolamento urbanistico comunale, e che però è foriera di grandi cambiamenti e non in meglio. Bene, grazie, eccomi qua. Sì, la variante al regolamento urbanistico, la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico, che è l'articolo che si occupa delle classi di intervento, cioè delle categorie di intervento sugli edifici, nella trasformazione degli edifici. Detto in una frase, il regolamento urbanistico con questa variante abolirà l'obbligatorietà del restauro sulle trasformazioni degli edifici storici. Cioè, per gli edifici storici sui quali finora nella pratica e anche nella normativa si interveniva con i metodi del restauro, da ora in poi nel Comune di Firenze, se la variante sarà approvata, si potrà intervenire con la ristrutturazione edilizia. Ecco, la variante è ancora in fase di discussione? Sì, la variante è stata adottata il 16 aprile, era stato presentato il documento d'avvio, avevamo già presentato le nostre critiche, sia come urbanisti, come gruppo urbanistica per un'altra città, anche dal qualche... insomma, poi dopo l'adozione le interpretazioni critiche si sono affinate sulla rivista La Città Invisibile www.perunaltracitta.org, trovate appunto la nostra articolazione critica e dura contro questa variante. Perché critica e dura? Da una parte perché diciamo siamo tutti affezionati alla tutela del patrimonio storico, e questo è un discorso di che lasciamo un attimo da parte. Soprattutto siamo molto preoccupati del fatto che una variante che allarga le maglie della trasformazione sugli edifici storici avrà degli effetti di tipo avrà ricadute sociali. Gli edifici storici si trovano per la maggior parte, ma non tutti, e qui interessa al settore nord-ovest, e poi ci torneremo, interessa appunto i pezzi migliori, no, del patrimonio collettivo urbano. Allargare le maglie significa che la speculazione edilizia, diciamo, ha meno vincoli, no? Ha meno vincoli nella trasformazione. Nel restauro si possono fare certe cose, poi vediamo se andiamo anche nel dettaglio, si possono fare certe cose, con la ristrutturazione edilizia si può fare tutto. La ristrutturazione edilizia è la classe di intervento la più invasiva, intrusiva, permissiva. Cioè, la ristrutturazione edilizia permette perfino la demolizione e ricostruzione. Vi leggo. Allora, aspettiamo un attimo, leggi, perché c'è una domanda. Sì, certo, ce la leggi, però appunto voleva capire quali sarebbero gli edifici interessati, questi edifici storici, qualsiasi. Allora, gli edifici storici interessati sono, allora, perché come al solito l'urbanistica è una materia noiosa, complicata, quindi non è mai semplice dare risposte alle domande che ci fate, perché noi poi traduciamo da anni piani, regolamenti. Allora, gli edifici storici interessati a questa variante sono, dunque, cosa si intende per edificio storico? Questa sarebbe la cosa. Da una parte si intende per edificio storico, viene inteso insomma all'interno della variante, gli edifici notificati, cioè gli edifici che, sui quali è apposto un vincolo da parte della, un vincolo, una delibera, un vincolo per legge, un vincolo ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, cioè la legge del 39. Quindi un vincolo che limita molto le trasformazioni, nel senso appunto di garantire la tutela dell'edificio storico, e quindi gli edifici vincolati, che però possono anche non essere storici, cioè il vincolo può anche riguardare una bella architettura, ma non solo perché è storica, ma in quanto ritenuta un bene culturale, quindi degno e un bene da tutelare. Dall'altra parte però esiste tutto l'edificato urbano storico. Ovviamente non esiste una data oltre la quale prima è storico e dopo non è storico, sono le classificazioni che il comune fa patrimonio edilizio ricadente nel territorio comunale. Questo basta guardarsi il regolamento urbanistico che è online e si vede quali sono gli edifici storici, ma moltissimi sono gli edifici storici del territorio comunale fiorentino. Non solo nel centro di Firenze, come si può magari pensare. Non solo nel centro di Firenze, edifici storici sono ovviamente, le emergenze, le ville, le chiese, le pievi, eccetera, eccetera, i castelli, però sono edifici storici anche le case a schiera che si dispongono lungo la via Pistoiese Brozzi Peretola, non la via Pistoiese Nuova, insomma la strada, lungo la via delle Panche, la via Reginaldo Giuliani, cioè nel settore qui di nord-ovest è esteso la categoria di edificio storico, non è marginale, quindi una variante che va a toccare le possibilità di cambiamento dell'assetto degli edifici storici riguarda pienamente anche il settore a nord-ovest. Ovviamente riguarda di più la città storica, certo, ma questo comunque riguarda tutto l'intero territorio comunale. Riguarda l'intero territorio comunale. Vi volevo, si era rimasti alla questione della ristrutturazione edilizia, perché non tutti, immagino che non tutti gli ascoltatori conoscano il testo unico dell'edilizia. Dal testo unico dell'edilizia si legge, vi leggo solo due righe e mezzo, con cosa si intende con ristrutturazione edilizia. Ascoltate, un insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Cioè vuol dire che l'intervento di ristrutturazione edilizia appunto può prevedere persino la demolizione e la ricostruzione diversa di un edificio diverso da quello originale. Quindi anche per esempio c'erano e rimangono, questo te lo chiedo, delle tutele rispetto alle facciate delle case, degli edifici. Allora, aspetta. Questa variante ha due capitoli. Una parte riguarda gli edifici storici, gli edifici storicizzati, cioè tutta una serie di voci, comunque la parte maggiore sono gli edifici storici. Una parte della variante riguarda invece gli edifici notificati, cioè quelli vincolati ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, con sugli edifici vincolati la trasformazione è soggetta a un doppio controllo, uno è quello da parte del comune permesso a costruire e poi l'autorizzazione del sovrintendente. E questo qui si entra in un campo gravissimo, lo direi subito così non ci si torna. Sugli edifici vincolati, cioè dagli Uffizi, voglio dire alla villa di Rusciano, edifici vincolati, ora c'ho anche l'elenco, poi li guardiamo eventualmente. Sugli edifici vincolati decade l'obbligatorietà di agire con i metodi del restauro, quindi conservativi che permettono, appunto, garantiscono la tutela del bene, si può agire anche con interventi di ristrutturazione edilizia, cioè fino alla demolizione e loro ricostruzione, o comunque con interventi molto invasivi che finora erano vietati, eccetera, eccetera. E questo è sul patrimonio notificato. Vediamo un po' invece quali sono gli effetti sul patrimonio sulla stragrande maggioranza, no, della edilizia del territorio fiorentino, dell'edilizia diciamo precedente il secondo dopoguerra, più o meno, perché poi le classificazioni sono fatte dal comune non secondo una questione cronologica. Ecco, sull'edilizia diciamo storica invece, il comune di Firenze introduce, secondo noi, introduce un'inedita categoria di trasformazione. Le classi di trasformazione edilizia sono definite per legge dello Stato, no? Il Comune di Firenze introduce la ristrutturazione edilizia limitata, che non esiste, è inedita. Cioè, il Comune di Firenze si prende la libertà di introdurre una categoria di intervento che non esiste per legge. Questa categoria, appunto, di trasformazione, che è la ristrutturazione edilizia limitata, cosa prevede? Prevede la conservazione della sagoma, la conservazione della sagoma, e su quello è scritto nero su bianco, la salvaguardia sostanziale delle facciate. Questo sostanziale non si sa bene cosa vuol dire, citato, la tutela sostanziale, le facciate devono essere sostanzialmente, devono rimanere uguali. Cosa c'è dietro a questo sostanzialmente? La salvaguardia degli androni e degli elementi, quelli che si dice distributivi verticali, cioè le scale all'interno delle case, quindi androni e scale devono rimanere uguali, e anche i solai, se di interesse. Anche questo non è ben specificato. Oltretutto, questa ristrutturazione edilizia limitata, ecco, dice la quota dei solai può essere modificata se si opera su elementi privi di interesse, però anche questo privo di interesse non si sa cosa vuol dire. Privo di interesse è un solaio senza, che so io, senza gli affreschi sul canniccio, sul cannicciato, cioè non è chiaro. Allora, siccome però è previsto l'aumento della SUL, cioè della superficie utile lorda, cioè del piano di calpestio, ma la sagoma deve rimanere uguale, in una casa il cui volume deve rimanere inalterato, ma nel quale si può aumentare la superficie di calpestio, significa automaticamente che si può inserire qualche soppalco, si può inserire un altro piano, eccetera. Quindi questo, che ne dicano in commissione urbanistica, è un provvedimento normativo spinge alla conservazione, ancorché non totale, della sagoma e dell'involucro, ma a un rifacimento degli interni. Si dice façadisme in francese. Questo provvedimento riguarda sia gli edifici pubblici che privati? Beh, certo, non c'è distinzione. L'urbanistica detta norme che poi limitano le trasformazioni sia di edifici pubblici e privati. Certo, qui la domanda però, la domanda sottintende però qualcosa. Cioè, questo allargamento delle maglie, lo diceva sul Corriere Fiorentino un imprenditore immobiliare che vuole rimanere anonimo, così c'è scritto, quindi l'allargamento delle maglie è funzionale, diciamo così, detto proprio in sintesi, è funzionale alla speculazione immobiliare. Cioè quando si cerca di vendere un bene, magari pubblico, e ritorno sulla villa di Rusciano, sul quale però i vincoli di trasformazione sono molto stringenti, ovviamente la villa è meno appetita. Ma quando si legge sulla variante a regolamento edilizio che mi sono portata qui per sostegno morale, quando invece la villa di Rusciano la si vende, ma gli interventi possono essere di tipo appunto di ristrutturazione edilizia, come cioè, ho detto, sa già che può fare degli interventi. Certo, l'acquirente sa già che può fare degli interventi pesanti e non avrà vincoli di alcun tipo, tranne, e qui mi ero dimenticata di dirlo, invece va detto, tranne l'autorizzazione, cioè le trasformazioni devono sottostare all'autorizzazione della sovrintendenza. E a tell ya about the young idea. And man, yes, and now you said you're bitter. Allora, quelle maglie allargate di cui parlava Ilaria Agostini in maniera sempre brillante, lucida, anche tecnica, perché giustamente è un argomento tecnico, sono appunto quello che in apertura dicevamo, il corpo ostile della burocrazia, no? Che deve farsi da parte per appunto far passare il mercato e, diciamo, in generale permettere lo sviluppo immobiliare, quindi la crescita dei capitali finanziari in ambito urbano, e appunto hanno bisogno in qualche modo, no, di decostruire l'idea di pubblico, e si parte da una burocrazia ingombrante che rallenta, che affatica i processi, no? Che è viene presentato come se fosse l'unico limite allo sviluppo. Dall'altra parte, però, quando si decide di intervenire o di provare a intervenire, come si è visto a Firenze, per esempio nella regolamentazione della dinamica del turismo, e quindi la regolamentazione degli affitti brevi in particolare, la burocrazia, o meglio, le legislazioni sono quel vincolo per il quale non si può agire, quindi, no, c'è un rimpallo di responsabilità giuridiche tra la dimensione locale e la dimensione nazionale, come è inquadrata costituzionalmente la proprietà, cosa si può fare, e quindi diciamo il processo di in un certo senso la burocrazia diventa praticamente, seguendo un po' questo ragionamento che anche a me torna molto, un aspetto meramente contestuale, perde, passate il termine, ogni funzione di controllo che può avere, quindi, o di tutela, ecco, forse è più corretto, cioè diventa semplicemente un telaio dove il qualsiasi meccanismo speculativo, comunque sia magari anche necessario, perché, accettiamolo, si deve adattare, quindi ecco, diventa semplicemente, sembra essere qualcosa su cui lavorare solo sopra l'aspetto, il contesto burocratico. Esattamente. Secondo me, diciamo che in base alla soggettività, agli attori coinvolti, la burocrazia è l'ostacolo o al fare o l'ostacolo da bypassare. Un po' questa, no, la differenza. E secondo me eclatante è l'esempio, insomma, della vicenda del modello Genova, no? del crollo del ponte autostradale sul Polcevera, ponte autostradale tra l'altro appaltato appunto insomma, la gestione, la manutenzione a privati, quindi laddove poi il pubblico ha anche dei margini di monetizzazione, non è mai lui che monetizza ma è il privato, quindi il pubblico gioca sempre questo ruolo di vassallo del potere economico, e il modello Genova è un calderone che integra tutti gli ingredienti di questo ricettone, no? Mi sono appuntato che c'è l'archistar benefattore Renzo Piano, certo, che dona il progetto alla comunità, subito permette di ripartire dall'alto della sua esperienza, della sua autorevolezza progettuale, in barba a qualsiasi ontologia professionale, no? E poi ci ma sono... lui è famoso. Esatto, esatto, lui è famoso, quella è la firma, quello è il disegno, e quindi si presenta, diciamo, c'è l'ingrediente dell'archistar, c'è l'ingrediente dell'assenza di appalti e dell'affidamento diretto, e quindi efficienza, e in nome dell'efficienza in pochi mesi si ritira su un ponte, però che costo ha questo? Fare. Esatto. Che costi ha questo? Lo possiamo veramente scalare su tutto, in nome del fare e del fare bene si può bypassare, possiamo non permetterci controlli alle aziende fornitrici, alle aziende che poi posano i materiali? Forse di Esselunga di Via Mariti ce ne sarebbero 10 al mese se tutto fosse così liberalizzato, no? E poi c'è l'ultimo aspetto che... magari dopo ci ritorniamo, è la totale assenza di interlocuzioni con le comunità che abitano e insistono su quei territori. Ci mancherebbe. E quindi questo modello accelerato è forse un modello veramente da combattere, da mettere appunto a critica. Sì. Tra l'altro nella clip che abbiamo appena sentito di Ilaria Gossini, che poi ora manderemo la seconda parte, le cose a cui lei si riferiva, le norme, no? Le pezzettini che noi abbiamo chiamato burocrazia, ma questi sono proprio micro regolamenti urbanistici, come dicevi giustamente all'inizio, beneficiano del fatto che sono anche difficilmente da capire, cioè sono difficili da capire, nel senso è qualcosa che sta nascosto all'interno di una legge, dentro un'altra legge, dentro un'altra legge, ma io come faccio a rendermene conto? Cioè, se non c'è un grosso lavoro da parte anche di tecnici che tutto sommato riescono a anche tradurmi, ok, questa cosa qua vorrà dire che ti ritroverai con un milione di bed and breakfast tra 10 anni. Cioè, per me è anche molto più difficile capirlo. Quindi il nascondersi dietro questi cavilli burocratici, che cavilli non sono, da un lato, come dicevi burocratici te, o legali, perché poi appunto certo, a volte la... cioè, appunto come la legge si pone in termini di vincolo, cioè, la burocrazia come macchina tecnica, no? Dell'elaborazione delle politiche, qui abbiamo a che fare, ecco, con... diciamo, certo, diciamo che in senso forse politico, che è un po' anche quello che ci interessa un po' raccontare, il grande cappello forse è quello proprio di retorica, cioè usare la nomenclatura come strumento funzionale al fare quello che voglio io come amministratore e a rendere il meno digeribile possibile le cose a chi subirà o teoricamente riceverà queste azioni amministrative. E appunto, come dicevi tu, Ilaria è molto puntuale nella descrizione di questi passaggi. In particolare lei si riferisce a quello delle varianti che appunto fanno intuire che c'è un cambiamento, c'è qualcosa, ma non si capisce in che modi. Ad esempio, c'è tantissima confusione tra adottato, approvato, cioè tutte queste regole hanno tantissimi poi passaggi che rendono veramente farraginoso la comprensione e anche l'agire. Tutto, sì. E reagire. Una vaghezza volontaria, no? Certo. Questo margine di interpretazione è poi quel... Sì. Sì, questo poi ci ritorneremo, e fra l'altro nel prossimo pezzo che sentiamo, nel prossimo spezzone di intervista, sempre del 2018, di Ilaria Gossini, ci si ritorna su questo. Direi che ce l'ascoltiamo, che dite? Almeno dai. Adelante. Entriamo nella questione ancora di più. Sì, allora, questa variante agisce, si è detto, su tutti gli edifici storici, sul tessuto storico storicizzato e sugli edifici notificati. In particolare, però, nella variante sono contenute le schede delle cosiddette AT, aree di trasformazione, cioè le aree di maggiore attenzione per noi che osserviamo criticamente la città, cioè quelle aree diciamo anche più appetibili, più interessanti per trasformazioni di tipo speculativo e che certamente non vanno a favore di un miglioramento dell'ambiente di vita urbano. Allora, tra queste mi sembra notevole segnalarvi anche edifici che sono già stati acquistati nella famosa vendita, nella famosa alienazione svendita di Nardella, no? Tra questi, ad esempio, c'è la Querce, area di trasformazione, però ci sono anche molti edifici notificati o non. Ad esempio, Poggio Secco, c'è l'ex deposito del tram di Viale dei Mille e c'è la villa di Rusciano che vi ho già detto, notificata, sulla quale si potrà agire con la ristrutturazione edilizia. Il Monte Oliveto, notificato, zona panoramica con vista su Firenze, la villa dell'Ombrellino, l'ex manifattura tabacchi, sull'ex manifattura tabacchi non si dovrà agire con i metodi del restauro, ma si potrà demolire, ricostruire. Ovviamente nessuno, diciamo, ha l'interesse di demolire, anche perché la sovrintendenza non lo concederebbe. È chiaro che però il comune recede da un suo compito, che è quello di garantire la tutela degli edifici del patrimonio architettonico. Diciamo che sì, non verrà demolito dove ci sarà, sotto certi aspetti, un interesse economico. Ecco. Certo, l'interesse economico ovviamente qual è? È quello di trasformare gli edifici, soprattutto gli edifici più belli, più accattivanti, più appetibili, per farne cosa? Il solito albergo, il solito studentato di lusso, il solito relè, il solito resort e tutte queste cose qua. Dunque, poi cosa abbiamo? Abbiamo tra gli edifici le aree di trasformazione che sono coinvolte dalla variante, l'ex caserma Vittoria Veneto in Costa San Giorgio, acquistato dall'argentino che ha comprato anche la villa di Cafaggiolo, sulla quale si stanno avviando lavori che addirittura comporteranno lo spostamento della strada statale per liberare la villa e quindi l'albergo di lusso dalla noia del traffico civile. Oppure il teatro comunale, anche sul teatro comunale la letteratura ormai amplissima, il teatro comunale svenduto alla Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti vende a una società diciamo molto vicina al Giglio Magico. Anche qui la variante permetterà lavori molto più invasivi. Diciamo che nel momento in cui sono stati venduti da parte di chi l'ha acquistato c'era già l'idea, cioè c'era, sapevano già che ci sarebbe stata con probabilità una variante del genere rispetto all'edificio che è stato acquistato. Certo, lì addirittura io mi ricordo, perché poi le cose vanno anche vissute con un po' di, come dire, di buon umore e di ironia, quando si sfogliò la famosa brochure di Nardella, l'Invest, no, non Invest, il City of the Opportunities. Sì, lì ora mi viene da chiamarla brochure, ma insomma va bene, nella brochure il teatro comunale era messo in vendita, il sindaco andava a farne la propaganda, a fare la propaganda di tutto questo materiale nostro, collettivo, in vendita ai mercati, alle fiere della speculazione immobiliare. Il teatro comunale veniva presentato già con un rendering che ne vedeva la trasformazione in piccoli grattacielini, vorrei ma non posso, piccoli grattacielini, con una volontà, se non mi sbaglio fu proprio lo stesso sindaco a dichiararlo al giornale, di trasformare il teatro comunale in appartamenti stile Fifth Avenue. Che vuol dire? Vuol dire appartamenti con il maggior, cioè appartamenti per turisti o per i cosiddetti city user, cioè residenti che non hanno, che però non radicano in città di breve termine, insomma una Firenze o almeno il centro sempre più per i ricchi, diciamo. Una Firenze sempre più per i ricchi, sì, cioè o comunque se non per i ricchi, per persone che non hanno un'influenza politica, cioè residenti o turisti, no, il turista non per forza ricco, perché poi stiamo parlando anche di turismo di massa, anche, o se no residenti, appunto, questi sì, probabilmente di fascia ad alto reddito, che hanno bisogno di stare qualche anno a Firenze, una seconda casa a Firenze, che magari non votano neanche, anche, quindi infatti le statistiche ce lo dicono, i residenti stranieri in centro si stanno la percentuale sta salendo, incrementa di anno in anno, ora siamo al 22,3% di cittadini stranieri residenti in centro storico a Firenze, che non sono solo migranti che hanno trovato una sistemazione diciamo chenou da noi, ma sono anche turisti ad alto reddito. Quindi questa è la trasformazione che sta investendo la città di Firenze, e questa variante di cui stiamo parlando aiuta in questo tipo di trasformazione. Sì, quando parlavi appunto della possibilità dell'edificio del Teatro Munale di essere suddiviso in appartamenti, ecco, quindi questa variante favorisce ancora di più il frazionamento degli edifici, e quindi un rientro, un guadagno economico che non deriva soltanto dalla speculazione edilizia in sé, diciamo, ma anche dalla gestione, ecco, dell'edificio. Sì, allora, questa variante aiuta, diciamo, chi ha intenzione di frazionare gli edifici, perché è scritto esplicitamente, cioè le trasformazioni non devono tener conto, non terranno più conto dell'assetto tipologico della casa, cioè il tipo di casa, quindi l'appartamento fatto in un certo modo, col corridoio, le stanze. Insomma, questo significa frazionate, cioè il messaggio è quello, quindi probabilmente ci troveremo tra qualche anno ad avere molti più edifici frazionati, molte più famiglie mononucleari, perché gli edifici sono piccoli, il taglio degli appartamenti è piccolo, quindi è indicato per chi vive solo. Già oggi il 56,8 delle famiglie residenti in centro è composto da una sola persona, e quindi sì, case molto piccole che poi serviranno essenzialmente all'affitto a breve termine. Questa variante cosa fa? Toglie terreno agli abitanti, nel momento in cui si può pesantemente trasformare un edificio magari anche di proprietà pubblica, quindi vocato all'uso collettivo, edificio nel quale si potrebbero fare molte cose che poi spero di potervi dire, se si trasforma in albergo, se si trasforma in museo della fondazione tal de tali, se si trasforma in scuola di alta di eccellenza per... ecco, queste funzioni esclusive non aiutano la vita di qualità all'interno delle mura, insomma, all'interno della città storica, ma anche dei quadranti periferici. Certamente sulla città storica la pressione è enorme, cioè la volontà è quella di formare una cittadella, no? Una cittadella, quella centrale, dove si prendono le decisioni, dove circolano, diciamo, i potenti, e poi una periferia nella quale una periferia nella quale alla fine si cerca di sopravvivere, ecco. Quindi questo, in questi edifici che a questo punto saranno probabilmente destinati ad essere tutti trasformati in queste funzioni esclusive, chiamiamole così, esclusive, che fanno riferimento a un turismo di natura estrattiva, sì, turismo di rapina, cioè non sarei clemente su questo, estrattivismo puro su un patrimonio di dimensioni grande ma di dimensioni limitate, che il turismo consuma, quindi io sarei proprio per dire sì, turismo di rapina. Ecco, in questi edifici si potrebbero fare tantissime cose, pensiamo, che ne so, a Sant'Orsola o a tanti altri, ma di tutto, dalla residenza popolare, la residenza di breve periodo per migranti, funzioni di tipo sociale, collettivo, scuole, palestre, fu detto la piscina, ben venga una piscina in centro, perché anche lo sport aiuta, insomma, la vita, la buona vita urbana. Quindi ecco, sono occasioni completamente perse. I nostri governanti vedono solo la questione economica. Io ho fatto il conto, non l'avevo ancora mai fatto, ho fatto il conto di quanti metri quadri sono stati posti in vendita e portati nel Florence City of the Opportunities, la famosa brochure di Nardella, quella portata al MIPIM, eccetera, erano 563.700 322 metri quadri, cioè più di 500.000 di metri quadri posti in vendita, quindi vuol dire più di 500.000 di metri quadri in città, in disuso, dismessi, sui quali non c'è alcun progetto, che potrebbero, trasformato in termini di residenza, 500.000 metri quadri darebbero alloggio a 22.500 abitanti. Il piano strutturale che ha rinunciato a gestire, a definire, a governare le destinazioni d'uso, e il comune, la giunta, ha pensato alla vendita di questo patrimonio, che è l'occasione per la trasformazione della città. Se posso fare un esempio, faccio l'esempio di San Gallo. L'esempio migliore è quello dell'ospedale di San Gallo. Siamo in Piazza della Libertà, tra Piazza della Libertà e Piazza San Marco, quindi una posizione ottima per qualsiasi tipo di funzione collettiva. Il piano regolatore cosa prevede per l'area di trasformazione di San Gallo? Mi sembra siano più di 10.000 metri quadri. Prevede, e cito testualmente a memoria, un mix di funzioni da definire. Allora, il piano regolatore, che come destinazione d'uso di un'area prevede un mix da definire, è un piano regolatore che ha abdicato al suo compito, che è quello di regolare le trasformazioni della città. E allora, non avendo una destinazione d'uso, che cosa pensa Cassa Depositi e Prestiti o il suo fondo di investimento, non mi ricordo quale, che possiede, a cosa pensa, no? Di cosa pensa di fare? Di venderlo questo edificio. Allora, per venderlo c'è bisogno di definire una variante da presentare in consiglio comunale. Viene fatto un bando nel quale, la quale finalità del bando su San Gallo è definire una variante urbanistica da sottoporre all'esame del consiglio comunale. Cioè, vengono fatti bandi di idee, con corsi di idee che definiscono possibili trasformazioni d'uso da destinare, insomma, appunto da passare in esame del consiglio comunale. E ovviamente che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che la destinazione ottimale è quella dell'albergo, le solite cose, insomma. È evidente, nel senso, se viene affidata la progettazione a chi non tiene conto del bene pubblico. Ma certo, perché ovviamente se la proprietà è privata o comunque è di una Cassa Depositi e Prestiti SPA che cerca di fare l'interesse dell'azionariato, la destinazione d'uso sarà quella speculativa, non certo la messa a frutto collettiva di un edificio pubblico. Però si potrebbero dire due parole sul piano delle alienazioni, cioè come mai si parla di vendite di questi edifici? Si parla di vendite di questi edifici perché ci sono state delle variazioni legislative nel corso, già a fine anni 90, ma poi nel corso degli anni del decennio 2000, che hanno fatto sì che il patrimonio immobiliare e anche fondiario dello Stato potesse essere messo in vendita. Nasce la Patrimonio SPA, la SCIP SPA fondata da Tremonti, SCIP, nomen omen proprio, cioè la società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici, la Patrimonio SPA. Il meglio si ha nel 2008, bolla edilizia deflagrata, quindi le imprese edilizie sono ferme, nessuno costruisce più, quindi non arrivano gli oneri concessori che vanno nelle casse dei comuni, sono bloccati, i comuni boccheggiano. Allora che cosa pensa il governo 2008, ora nell'emozione della trasmissione non mi ricordo quale governo era, nel 2008 si pensa di allegare ai bilanci, alle previsioni di bilanci dei comuni e degli enti locali, quindi ora noi stiamo parlando del comune di Firenze, ma anche gli enti locali, quindi la regione, sanità, eccetera, eccetera, di allegare al bilancio preventivo dei comuni e degli enti locali il piano delle alienazioni degli immobili di proprietà dell'ente. Quindi, bolla edilizia, l'ente locale ha bisogno di soldi, i comuni in particolare, cosa si fa? Si vende. Allora, questi piani delle alienazioni sono delle elencazioni, questo è il capitolo nel quale Firenze ha la parte più sublime in commedia, va detto, cioè noi in genere non lo siamo, ma in questo siamo stati veramente i migliori o i peggiori. Già Renzi fa il piano delle relazioni, con Nardella abbiamo l'apoteosi, abbiamo più di 500.000 di metri quadri in vendita. Questa, l'elencazione di questi immobili, Quindi è una lista di occasioni perse, no? Di immobili privati, di immobili pubblici che potevano diventare il perno di un nuovo progetto di città, le centralità di Rione, luoghi appunto di aggregazione, come ho già detto, come ho detto prima, insomma. E rieccoci ai microfoni Radio Wombat, ma in diretta anche su Radio Quarra, Radio Onda Rossa e Radio Eustachio per il Ponte Radio. Vi ricordo i nostri contatti, radiowombat.net, il nostro sito dal quale potete ascoltarci in diretta o ascoltare le registrazioni delle vecchie puntate. La frequenza in onde medie 13.59 se vi trovate nel territorio fiorentino e un po' oltre, e la casella di posta wombat@insiberia.net. E quindi stavo parlando di alienazione del patrimonio pubblico immobiliare e di vendita, svendita dovremmo dire, del patrimonio pubblico. Sì, cioè la svendita del patrimonio pubblico e appunto dalla registrazione di Ilaria Agostini emerge proprio anche il valore, cioè che non è patrimonio pubblico da poco, è veramente patrimonio anche culturale quello. Tra l'altro una quantità di immobili che forse non ci si rende conto, tantissime. Sì, quando cita il mezzo milione è difficile quantificarlo, però forse perché oggi ne abbiamo abusato informandoci per questa puntata, però è una cifra che non ha senso. Cioè, tra l'altro quello è solo quello che viene messo in vendita in quella operazione, ma in realtà c'è molto altro che è stato venduto prima. È una delle operazioni, tra l'altro. Lei parlava nel 2018 e molte di quelle voci di vendita sono già state finalizzate, sono già state trasformate. Io penso al Banco dei Pegni, no, al Monte dei Pegni, sì, di Via Palazzuolo, che è già 24 Hours Hotel, insomma, Via Palazzuolo praticamente tutta la via ormai sono alberghi. Quasi. Sì, direi quasi anche tutta la città. Sì, fra l'altro. Sì, effettivamente in quell'operazione lì che citava Ilaria, a me ha colpito che su 59 edifici, qui si parla per chi non è di Firenze, ecco, per noi è abbastanza chiaro, devo dire, però cioè, c'è stato un momento in cui Nardella, vestito da piazzista, fondamentalmente andava alle grandi fiere immobiliari in Cina, dove altro, a piazzare immobili. Ma a me la cosa che colpiva era che su 59 edifici, 47 erano privati. Cioè, non è che erano del comune che poi sperava che li vendessero, no, erano proprio già privati. Questa è un'operazione che a me ha sempre colpito molto. Sì, c'è cioè una doppia azione. Da una parte, come si diceva, no, il sindaco, in questo caso, ha vestito proprio i panni dell'agente immobiliare e andava a vendere il patrimonio pubblico, appunto, che quindi non gli appartiene, però faceva appunto l'agente immobiliare. Dall'altra c'è la dimensione un pochino più generica della funzione dello Stato, no? Come si diceva prima, che ha abdicato al suo ruolo, no? di pianificazione urbanistica, e quelle porzioni di territorio sulle quali non è in grado di intervenire, anziché avere una progettualità come un tempo in realtà era stato, e quindi aprire un progetto e trovare poi la ditta, le aziende che avrebbero poi potuto trasformare il progetto in qualcosa, in intervento, sì. Adesso direttamente vende le porzioni di territorio. E quindi cosa vuol dire questo? Che il mercato poi ha totale libertà nel poter continuare e perseverare su una certa inerzia, no? E se l'inerzia è quella del turismo su Firenze, è inevitabile che poi proliferino ulteriormente gli alberghi. E nonostante poi in quel mix, no, di rimpalli di responsabilità nazionali, locali, eccetera, ci sia stata in realtà una legge regionale o provinciale, non lo so, sul limite della costruzione di nuove attività recettive. Regionale, all'interno sia del centro storico di Firenze che della buffer zone, che è l'area cuscinetto. Sì, qua nord, cioè esatto, l'area cuscinetto, diciamo, a tutela UNESCO, tutelata dall'UNESCO, sì, che sta attorno al... alle ville Medice, che cioè ad esempio l'Accademia della Crusca, insomma tutta la parte diciamo della fu nobile nobiltà fiorentina nord-ovest, ecco, cioè, sì. Tutto ciò che rientra nella contaminazione rinascimentale di Firenze non è immediatamente prossima al centro, insomma lì non si poteva più costruire attività ricettiva. Cosa succede? Che nasce l'escamotage interessante dello studentato di lusso, che fino al 50% può essere destinato ad attività ricettiva. Ed ecco che c'è stato poi un proliferare di studentati. Anche in zona dove non avrebbero potuto teoricamente esserci. Esatto. E anche se fossero stati puri studentati al 100%, comunque erano puri studentati che si rivolgevano ad un target che sicuramente non è quello dell'università pubblica, ma è degli studi internazionali e della classe dirigente internazionale, che ha la possibilità e la facoltà di spostarsi e pagare migliaia di euro per mantenersi a giro per il mondo nei propri studi. Certo. Sì, assolutamente. Tra l'altro questo aspetto qua specifico almeno sul territorio fiorentino ha un attore particolarissimo, che è il gruppo Student Hotel, che ormai si sta diciamo allargando su varie parti del territorio italiano, diciamo prima Bologna, Torino, Milano, Roma. Ormai è sposto, però Firenze è stato uno dei primi casi. E sullo Student Hotel in particolare, sul caso di Firenze ci torniamo, ma una roba che è molto correlata a quello che dicevi è le comunicazioni di questi spazi, dalle fasi di progetto, anzi di pianificazione, a quelle di progetto, a quelle proprio di realizzazione, sono sempre state accompagnate da delle retoriche trionfanti, cioè andremo a creare un parco pubblico, creeremo delle aree di socialità, cioè la comunicazione che è stata fatta al netto della proprio completa mancanza di credibilità agli occhi di chiunque in città, era assurda. Cioè c'è una narrazione, ecco, di tutto questo processo che è spettacolarizzante, è proprio biecamente marchettaro, cioè poco credibile, ma comunque sia sempre presente. In generale i vari tipi di trasformazione hanno bisogno anche di una legittimazione retorica, e quindi si infrastrutturano poi delle narrazioni che spesso sono semplicistiche e banalizzanti. Cioè, se da una parte c'è il tecnicismo profondo della materia urbanistica, che è impermeabile alla conoscenza comune, dall'altra c'è la semplicità più totale la semplificazione e la generalizzazione su alcuni temi. Torna che ad esempio in un'area come quelle, cioè come quelle di Firenze, dove abbiamo una densità veramente, ci sono degli articoli che appunto citano paralleli con capitali asiatiche come densità, come rapporti di densità, che quindi hanno palesemente un problema abitativo, palesemente un problema di costruzione, fare dei rendering su cui te ci metti un giardinetto veramente proprio piazzato con la mamma con la carrozzina, sì, è veramente assurdo, sì. Ecco, questo è un po' il contesto poi dove queste realtà di cui parlavi, ecco, quindi queste strutture che si propongono in un modo, poi si comportano invece come veri e propri alberghi, anche alle volte si sono... Sì. E poi c'è anche il fattore della mancanza e della progressiva riduzione di contrattualità sempre del pubblico, dell'amministrazione, nei confronti del privato che interviene sul territorio, no? E quelli che prima erano diciamo gli oneri urbanistici con cui si riusciva a diciamo perseguire anche il bene pubblico imponendosi sulla trasformazione, specie quando trainante era la trasformazione a vocazione produttiva, e quindi laddove si creavano nuovi siti produttivi, però ci doveva essere un ritorno in termini di benefici comuni nella fruizione della città, sì, per le persone. Questa cosa qui ora scompare. È azzerata, sì, è devo sconvolgente. Dire che era già da prima la tendenza si intravedeva, nel senso che le opere di compensazione sono a mia memoria sempre state ridicole, nel senso che compensavano sempre solo nella loro immaginazione il grosso scempio che invece veniva costruito. Però è vero quello che tu dici, che si è sempre più ristretta, cioè l'opera di compensazione è sempre più piccola, sempre più ristretta. Poi lo vedremo, faremo anche degli esempi dopo. Sì, poi secondo me al netto che si tratti o meno di scempi, perché magari poniamo che siano in realtà progetti auspicabili, quelli no, su cui... Okay. Che intervengono sul territorio. Al netto di questo, comunque, sono progetti che drenano porzioni di territorio pubblico e da quell'azione estraggono un valore. Questa equazione qui deve portare in qualche misura, per questa sottrazione alla comunità, un beneficio. Certo. E questo beneficio è gradualmente sempre più ridicolo, e non solo è sempre più ridicolo, è sempre... minore più appunto si va avanti nel tempo, e questa riduzione si riduce ad una circoscrizione dell'intervento poi nelle opere di compensazione che stanno intorno alla struttura. Quindi non lo so, io faccio l'albergo all'interno dell'ex collegio La Querce e il mio onere urbanistico qual è? Quello di rifarmi il marciapiede intorno, solamente bici, perché è una porzione pubblica. E per quanto marginale, cioè... e la cosa e l'aspetto che è proprio disarmante è che per quanto quell'opera resti del tutto marginale in termini di città organica, città viva, città vissuta, diventano meccanismi deterrenti efficacissimi in termini legali da parte di queste realtà, perché al netto che quella rotonda... costruita inutile accanto all'opera che hai ricodificato ti dà una condizione, un alibi enorme, e che viene tra l'altro regolarmente appunto usato sì, nella retorica strumento. Questa cosa ricorre spesso nella retorica dei discorsi di vabbè, però il privato è vero che gli abbiamo concesso, però ci ha fatto la rotonda, però dai, ci ha fatto la rotonda, come se molto spesso tra l'altro se ora non abbiamo il tempo di indagare tutte queste singole aree di cui veramente ognuna prenderebbe 16 trasmissioni, però molto spesso se vai a guardare gli vengono scontati, cioè pur in questa corsa al piazzare le porzioni di territorio pubblico, piazzarlo ai privati perché ci facciano i loro interessi, in realtà si cerca di renderli sempre più appetibili. In questo renderli sempre più appetibili c'è veramente la corsa di tutto, tra cui anche lo sgravio, mille sgravi, mille facilitazioni, sia da un punto di vista fiscale, da un punto di vista di imposte. Molto spesso, che ne so, era il privato sarebbe stato costretto, per esempio, a suo carico costruire, rifare l'impianto di illuminazione della via su dove ha costruito. Beh, per incentivarlo a costruire gli si toglie questo obbligo. E poi comunque sono obblighi appannaggio anche del soggetto costruttore. Certo. Cioè, sono vantaggi immediati, perché se faccio una rotonda che serve la mia area, se faccio un marciapiede che circoscrive il mio albergo, se faccio un impianto di illuminazione pubblica che illumina la mia area di pertinenza, sono opere di fatto per se stessi. Poi che quella porzione lì sia ad uso pubblico e quindi sia pubblica è irrilevante, ma quelle sono opere di compensazione ridicole. Io credo che ci sia anche proprio una porzione di ideologia, cioè del credere che il privato sia in qualche modo un benefattore che ci fa un enorme favore a occuparsi della cosa pubblica, perché in qualche maniera lo Stato non è in grado, per mille ragioni, quindi facciamolo fare ai privati che lo sanno fare bene, se lo fanno li dobbiamo ringraziare e anzi incentivare a farlo. Esatto, è l'efficienza legittimante, quella è la chiave di volta per mettere tutto in tasca e in mano al privato. E gli effetti pillola. Io direi potremmo dirigerci verso un nuovo pezzettino, perché sennò parliamo veramente sempre tantissimo. Sì. E poi ripartiamo con un po' di storia di cemento e disastri fiorentini. Oggi siamo molto British, quindi andiamo avanti con gli specials. We'll be right back. place. It's got me like a ghost. Quindi, dicevamo, eravamo sulla questione di tutta la svendita, abbiamo citato un po' tutti i vari meccanismi che stanno dietro alle questioni. E le retoriche che legittimano questi meccanismi. Queste, esatto. Dinamiche. Su questo tipo di retoriche, appunto, c'è un linguaggio comune che è tanto superficiale quanto cinico, ed è il linguaggio per quanto riguarda l'edilizia residenziale che strizza l'occhio al social housing, che è molto vago come argomento. È il linguaggio che tira in causa i programmi di partecipazione civica, perché comunque c'è bisogno di una legittimità pubblica degli interventi e delle trasformazioni, e da questo punto di vista c'è il programma Firenze Prossima, che è un enorme macchinone che è stato appunto organizzato e messo su per coordinare una forma di partecipazione che in realtà sembra più un... È uno specchietto. Sì, è uno specchietto. È più una costruzione pedagogica del consenso, no? In cui si arriva a far partecipare soltanto poi nei fatti chi comunque è coerente in continuità con gli interessi dei detrattori, sì, dei progetti. Ma poi non sono mai decisioni, sono come dire, cioè viene richiesto un parere assolutamente non vincolante. Assolutamente, quindi un consiglio. È una partecipazione nemmeno informativa quasi, è proprio, cioè nemmeno deliberativa, è una partecipazione, sì, giusto, quasi un questionario. Guarda, voglio citare soltanto questa cosa perché è molto buffa e la dice lunga sul nostro territorio. Cioè, ai tempi di Renzi, lui questo processo di partecipazione lo chiamava i 100 luoghi. Faceva questa cosa che c'erano 100 luoghi di Firenze su cui decide, su cui futuro la cittadinanza veniva chiamata a decidere. Quindi aveva indetto, non mi ricordo quante, ma decine di assemblee nei vari quartieri. sponsorizzandole molto con grande, insomma, poi questi processi sono anche, insomma, costano anche un sacco di soldi pubblici, ma vabbè. E queste foto poi chiaramente cioè, venivano fotografate tutte queste assemblee, c'erano questi siti tutti patinati dove c'erano le grandi assemblee con la vecchietta che aiutava a discutere sul giardinetto, post-it sulla lavagna, queste robe fintissime, no? E c'era bellissimo la retroscena, perché con un po' di persone ci eravamo seguiti, per esempio l'assemblea nel quartiere di Castello a Firenze Nord, che finì a seggiolate, cioè proprio lì finì fisicamente a seggiolate in faccia, è capitato effettivamente, e erano gli unici che nelle foto non c'erano, cioè nel sito la foto riguardo all'assemblea di Castello non c'era, tipo sai, censurata, il cugino, la seggiolata, sì, nella foto di famiglia il cugino quello brutto che non si mette. Sì, poi ci sarebbe da ricordare a queste persone che anziché spendersi nell'infrastrutturazione di questi complicatissimi macchinoni del partecipazionismo pilotato, c'è un mondo in realtà che già si esprime, già che porta avanti una serie di rivendicazioni e avvertenze, e quella è partecipazione abbastanza genuina che forse andrebbe un pochino più ascoltata. Tra l'altro non l'abbiamo detto in apertura, lo diciamo adesso, Lorenzo fa parte anche di un collettivo che ci teniamo anche a citare, il cui lavoro è molto importante in questo senso, che è Criticity, e che si è speso negli anni per una reale partecipazione nel senso di attività continuativa e insistente su quelle che sono le decisioni sulla nostra pelle. Sì, e anche un cercare di esporre a critica quella che invece vuole passare come partecipazione, diciamo, c'è questa doppia, sì. Esatto, questa doppia anima del tentare di fare processi appunto incrementali, quindi dal basso di cucire una serie di progettualità, dall'altra però vedere anche quali sono le grandi lacune dei processi invece istituzionalizzati, eccetera eccetera. Hai citato Renzi, e Renzi è anche non una parolaccia oggi. È anche uno dei, appunto, degli innovatori della Green City, a proposito di retorica, a proposito di ricette che semplificano e che attraverso la giusta posizione dei linguaggi e dei termini creano immaginari totalmente distaccati da quello che poi sono i propri effetti sui territori. E appunto era stato fatto durante la prima giunta Renzi il piano a volumi zero, di per sé interessante. Ah certo, detta così poi detta ottima. Si torna tutto. Sì, sì. Volume zero, ovvero non si può costruire oltre il volume originario, si butta giù ma non si può costruire oltre il volume, giusto? Perfetto. Se non che, ad esempio, le nostre... In verità, ad esempio, ci sono un sacco... Tornando alle premesse iniziali, tutte le varie regole, tecnicismi dei nostri territori permettono ovviamente degli escamotage che il meccanismo speculativo è super abile, come abbiamo detto finora, a sfruttare. Diciamo che quello che si estende un po' su tutto il terreno nazionale è quello della perequazione urbanistica, cioè, appunto, citando il meraviglioso glossario che Firenze Prossima offre, e cito testualmente: la perequazione urbanistica è un meccanismo che prevede un'equa distribuzione delle potenzialità edificatorie e degli oneri tra diverse proprietà immobiliari comprese in ambiti territoriali contigui, ad esempio facenti parte di uno stesso progetto, o discontinue tra loro. Quindi tutto o il contrario di tutto. Ed è finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione. Allora, questo aspetto finale è quello che un po' contestualizza questa roba. La prima parte di questa definizione, che tra l'altro probabilmente ritroveremo anche in siti di giurisprudenza o del Ministero, è che al netto che l'opera sia di interesse comune e definita in uno di questi documenti territoriali, piani urbanistici, piani regolatori e fratellini vari, gli attori che hanno interesse, che sono proprietari o che hanno interesse a costruire, possono di base scambiarsi dei volumi. Questo può succedere tra enti pubblici, enti privati, privati privati, cioè ha diverse connotazioni. L'importante è che sia inserito in un piano, in un quadro appunto pianificativo, che in genere è quello che nelle città si chiama piano urbanistico. Per capirsi, una cosa che avviene spessissimo è che se te hai due immobili di proprietà, di cui uno nel centro, nel ricco remunerativo centro storico e un altro nella pessima periferia, tu puoi decidere a un certo punto che se hai un obbligo esatto, per esempio a costruire una percentuale di social housing dentro il centro storico, io piglio quel pezzettino e lo sposto nella periferia. Esattamente, esattamente. E così anche con i volumi. Esattamente, sì. La questione proprio però che è centrale, che di base ha introdotto, è che a parte l'aspetto che deve essere insomma inserito in qualche quadro normativo, cioè il piano urbanistico prevede un po' quest'opera per cui ti vai a pretendere lo scambio, è che c'è anche il cedimento di oneri, e viene citato proprio l'aspetto dell'onere, cioè non è solo sarebbe quasi più comprensibile nella mia testa quello di interesse, cioè che nelle leggi del libero mercato, oh, guarda, a me mi interessa quella era qua, a te ti interessa quella, ci si scambiano. Qua invece si cede appunto l'onere. L'onere a sua volta nelle nostre aree, nelle nostre città, in verità tutte quelle italiane che sono sature, estremamente sature di cemento, è quasi sempre un meccanismo di washing, può essere sociale, può essere ambientale, e nello specifico appunto l'onere che caratterizza fortemente quasi tutte le amministrazioni toscane è l'housing sociale, cioè ogni pianificazione in Toscana urbanistica definisce delle azioni che al netto dei volumi zero di cui prima, cioè tu non puoi costruire ex novo, puoi recuperare qualcosa di già esistente, e su quel recupero, qualsiasi sia il tuo progetto, un tot dovrà andare in una forma di housing sociale. Ora, adesso, la confusione principale, diciamo molto maliziosa introdotta dalla regolamentazione fiorentina, è che si parla continuamente di housing sociale, che anche qua housing sociale, ora al netto del fastidio di usare sempre termini inglesi anche forse quando non servono, ma tutto sommato è una prospettiva forse anche condivisibile, cioè si va a cercare di risolvere la questione abitativa, si ammette che c'è un problema. Il fatto è che sotto questo housing sociale si definiscono varie categorie di intervento, o diciamo proprio paradigmi di intervento. Il più citato e forse sicuramente famoso è quello dell'edilizia residenziale pubblica, cioè quel meccanismo, appunto, anzi quel paradigma proprio di costruzione e di affido delle case, per il quale fondamentalmente si creano delle graduatorie secondo delle ISEE, e hanno accesso all'edilizia cosiddetta popolare soltanto persone che hanno delle determinate ISEE. Ci sono a sua volta all'interno sempre dei nostri meccanismi amministrativi in Toscana i cosiddetti paradigmi di edilizia residenziale sociale e edilizia residenziale calmierata. Davvero mi sono dispiaciuto per questo uragano di termini, nomenclature e sigle, però è questo è il contesto poi delle città che viviamo, e appunto dietro queste due ultimissime sigle invece si cela un meccanismo molto particolare, cioè l'edilizia residenziale sociale ha un carattere pubblico, l'edilizia residenziale calmierata ha un carattere privato. Ora, al netto che l'amministrazione, come dicevamo prima, agisce da agente immobiliare, quindi si prende briga anche di risolvere casi che sono di origine privata o magari anche statale, però assolutamente fuori dalle sue competenze, tipo proprietà di cassa, depositi e prestiti, o le commissioni, esatto. E fondamentalmente definisce che il recupero di quell'area richiederà un tot di housing sociale. Definisce che un 40% sarà di housing sociale, ma non definisce se sarà, ad esempio, edilizia residenziale sociale o edilizia residenziale calmierata. Cioè, lo farà un pubblico o lo farà un privato? Nel caso in cui lo faccia il privato, a sua volta, secondo le leggi regionali, c'è anche una è possibile, cioè è reso possibile al privato il meccanismo di monetarizzazione. Cioè tu quell'onere lo puoi comprare, lo puoi vendere. Cioè è posso vero. Dire dovevo costruire, non lo faccio, pago. E questo fa entrare anche soldi in cassa al comune chiaramente o alle istituzioni. Eh sì, sì, sì, sì. Continua sempre quel meccanismo in cui comunque sia il quadro è molto chiaro, da qualsiasi punto lo si possa vedere, quello che è eclatante insomma è l'aspetto commerciale, nemmeno proprio biecamente commerciale della città. Sono tutte voci che entrano, sono tutte voci che entrano a bilancio. Del comune, che però appunto essendo la città finita, essendo la città erosibile, poi arriva un punto di non ritorno in cui non rimarrà niente di pubblico perché tutto è stato venduto, tutto è stato certo. Ma l'altra cosa che è correlata al volumi zero, poi siamo abbastanza in chiusura, quindi dobbiamo un po' correre su tutte le milioni di cose che volevamo dirvi, però l'altra cosa che si aggancia ai volumi zero e a questo discorso che facevi te di varie è anche la questione del consumo di suolo, perché ok il volumi zero, ma intanto c'è una grossa confusione sul fatto che i volumi zero possono essere sia in orizzontale o in verticale e quindi possono cambiare lo skyline di una città, ma anche soprattutto opprimere gli edifici che hanno intorno, perché se l'unico parametro è quello del volume, chiaramente si gioca parecchio. C'è una questione di volumi, ma c'è anche una questione di superfici. Esatto. Ovvero i volumi sì, possono essere magari a zero, ma se questo comporta un'impermeabilizzazione drastica del territorio, che vuol dire parcheggi, posti auto, parcheggi scambiatori, in generale tutto ciò che che consuma il suolo. Ho fatto solo esempio di parcheggi, però sì. In realtà qualsiasi tipo di infrastruttura, qualsiasi anche tipo anche reticoli stradali, cioè pensiamo a esatto. Fossi e canali che vengono intombati, e questo è un problema per la condizione idrogeologica territoriale più dei volumi. I volumi hanno un impatto probabilmente, cioè sicuramente ambientale, ma anche un impatto poi estetico nello scala della città. Invece l'impermeabilizzazione di suolo e quindi l'impossibilità di rendere drenante un territorio produce quello che abbiamo visto a Campi lo scorso autunno. Con l'alluvione, certo. Sì, allora noi siamo in realtà in straritardo, quindi in realtà volevamo anche farvi un po' di esempi di aree tipiche fiorentine, non ce la facciamo penso, quello che ci tenevamo magari a dirvi in chiusura è farvi il piccolo esempio del panificio militare, l'ex panificio militare sul quale insomma, è arrivata agli onori della cronaca dopo il crollo del cantiere dell'Esselunga e con la morte di 5 operai che ci lavoravano dentro, e su quella struttura c'è stata una di queste tipiche operazioni che vi abbiamo appena descritto di cui parlavo anche più di una addirittura, cioè sono state insieme sì. più di una, è molto eclatante come caso perché c'è deregolamentazione, ci sono fallimenti, c'è mancata pianificazione, completa mancanza di pianificazione, abuso di cemento, si parla di un'area dove ci sono altri 4 supermercati in zona, non c'è un parco. Devo correggerti perché in zona sì, forse sì. Negli isolati limitrofi, ma nel 2019 l'occupazione di Viale Corsica ospitava un'assemblea contro l'apertura del panificio militare e avevamo contato in un raggio di 700 metri con centro il panificio militare ben 11 supermercati. Ah, ok, quindi non 4, quindi 11, non 4, scusa. Ma quindi ancora sì, peggio. Il doppio. Ma infatti ero già pronto col coltello. Sì, ma in un'area tra l'altro dove insomma c'è stata una colata di cemento. In realtà molte degli esempi di cui vi volevamo parlare, che sono un po' dietro a tutti tutte le dinamiche, cioè, insomma, che sono gli esempi di tutto quello che vi abbiamo descritto in questa puntata, molte di queste aree sono dislocate nel quadrante di Firenze Nord-Ovest, diciamo, dove c'è stata una colata di cemento veramente impressionante e dove il dissesto anche idrogeologico poi si è sentito, perché Firenze è una città da la configurazione morfologica fragile anche per certi versi, collinare. Ora non c'è il tempo. È un bacino di fatto, sì, con vari canali e reticoli idrici che l'attraversano, il cui equilibrio è evidentemente molto delicato, e negli ultimi decenni questo reticolo si è devastato e i frutti sono quelli che ci descrivevi te. Si è saturato tutti i corridoi, i cosiddetti corridoi verdi, vengono distrutti, insomma, interrotti, e quindi non sono più corridoi ma sono isole. Infatti. Quindi ecco, un quadro per niente edificante, e vi lasciamo così con questa morte nel cuore. Senza forse. Una morale. Vabbè. Senza una morale, con un invito a approfondire di più, penso che noi lo faremo prossimamente anche in altre puntate, magari, perché veramente l'argomento è enorme, è vastissimo. Sì. E probabilmente ripartire anche dalle vertenze in atto, tra le quali appunto la lotta per a questo punto non avere l'ennesimo centro commerciale nell'area di Rifredi Fontanini di Mezzo e rivendicare un parco al suo posto. E insomma, quell'area lì ha visto negli ultimi due anni veramente l'emergere di tutte le contraddizioni della nostra società, dalla massima repressione, si pensi agli sgomberi dello studentato al Ponte di Mezzo e delle diverse occupazioni poi di Viale Corsica, tutte a non pochi metri, a pochi passi, veramente a pochi millimetri dall'area del panificio, in nome della sicurezza, in nome della legalità, e poi appunto quella sicurezza e quella legalità ha prodotto 5 vittime sul lavoro, ricordiamo, e questa è la cosa più sconvolgente di quella vicenda, e quantomeno, diciamo, è nostro dovere almeno intitolargli una piazza, un parco, quello che sarà. Esatto. E con questa promessa in qualche maniera vi lasciamo, vi ringraziamo per l'ascolto e un saluto al prossimo Ponte Radio da Radio Wombat e a tutte anche le altre radio e chi ci ascolta. Ciao ciao. Ciao. Adios.